falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi sto per raccontarvi la storia di Mario Appignani e sono sicuro che in questo momento tutti voi state dicendo che non conoscete Mario Appignani. Non è vero. Non è vero perché Mario Appignani ha avuto nel corso della sua vita molto di più del famoso quarto d'ora di celebrità di cui parlava Andy Warhol, perché è apparso in televisione anche se a modo suo. È intervenuto rompendo le scatole a personaggi importanti del piccolo schermo, come Pippo Baudo. È stato il precursore di un genere, quello dei disturbatori televisivi, quelle persone che per finire in TV sfruttano le inquadrature altrui. Per farvi capire di chi è la storia che raccontiamo oggi, dovrei dirvi il soprannome con cui Appignani è passato alla storia, ai posteri, se possiamo così dire. Il soprannome è Cavallo Pazzo. E ancora di più, per aiutarvi a ricordarlo, dovrei farvi sentire questo. Buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti, amici telespettatori, amici del Teatro Ariston. Benvenuti alla prima serata. Questo festival è truccato. Per piacere, questo festival è truccato e lo vince. E lo vince Fausto Leali. Lo vince Fausto Leali. E dai, e ci siamo un'altra volta, dai. Abbiamo ripetuto Venezia. Buonasera a tutti. No, a questo punto qualcuno penserà che questo signore sia un mio scritturato. Me lo porto dietro per tutte le mie manifestazioni come accompagnatore ufficiale. Io vi confesso che le cose non stanno così. Baudo cerca di sdrammatizzare e intanto Mario Appignani, Cavallo Pazzo, appare anche in quel festival di Sanremo. Con grande scaltrezza, ne parleremo dopo, perché era bravissimo a eludere qualsiasi tipo di sorveglianza. Ma la sua storia va molto al di là delle sue incursioni televisive, delle sue azioni da disturbo e delle sue invasioni di campo durante le partite di calcio. Cose di cui vi diremo, ma vogliamo soprattutto raccontarvi la storia di un uomo con un passato difficile, un passato di abusi, di abbandono, una storia che passa per il movimento del 77 e quella sua ala creativa che allora venne chiamata quella degli indiani metropolitani. È una storia che incontrò anche il leader dei radicali Marco Pannella, la incontrò quando lo stesso Appignani gli chiese di scrivere la prefazione alla sua autobiografia, la storia di un uomo che, come ha detto qualcuno, voleva disperatamente a tutti i costi dire qualcosa. Il 1977, l'anno del punk, è l'anno in cui qualcosa di violento sta esplodendo nella società italiana. Le università stanno vivendo un altro momento di fuoco dopo quello del 68. C'è una generazione nuova che si ribella, si arrabbia, protesta anche contro i fratelli maggiori che il 68 lo avevano fatto. In Italia sta montando l'ondata del terrorismo che negli anni successivi insanguinerà il paese. ma in quel movimento del 1977 c'è anche una parte che ha voglia di ridere, di prendere in giro, di usare lo sberleffo come strumento di critica sociale e politica. I ragazzi vengono definiti l'ala creativa del movimento, sono i cosiddetti indiani metropolitani, quelli che nelle manifestazioni cantano slogan surreali e ridicoli, tipo il tè senza limone è la strada per la rivoluzione, oppure Geronimo Cochise, Nuvola Rossa, giovani proletari alla riscossa, 10, 100, 1000, Little Big Horn. Slogan così in manifestazioni che non sono manifestazioni qualsiasi. Sono quei cortei in cui qualcuno a viso coperto puntava pistole verso la polizia e i carabinieri, come nella loro foto famosa, la famosa foto della P38. Loro preferiscono invece prendere una strada diversa, sdrammatizzare, sfottere, scherzare, professare la risata come strumento rivoluzionario. La frase era: una risata vi seppellirà. Marco Appignani, il nostro protagonista di oggi, non è un vero capo, perché gli indiani metropolitani di capi non ne vogliono, ma senza dubbio è una figura di rilievo in quel gruppo. Si è autoproclamato cavallo pazzo e la scelta del nome è forse già un presagio e annuncio di una vita in cui la follia avrà un ruolo evidente. Si racconta di una scena e di una frase detta, pare, proprio da cavallo pazzo durante una manifestazione. La celere è schierata in tenuta da ordine pubblico, caschi in testa e manganelli in mano. Lui si pianta davanti ai poliziotti e avverte: scioglietevi o vi caricheremo. In quegli anni Appignani era parte di una società che cambiava, o forse di una nuova società che emergeva dal dopoguerra italiano. C'è una foto famosa per darvi l'idea di una manifestazione di giovani comunisti. In primo piano c'è un giovanissimo e magro Walter Veltroni. Vicino a lui Pierpaolo Pasolini, alla sua destra Ferdinando Adornato. Ecco, dietro di loro si intravede Mario Appignani. E non era per disturbare, non era ancora il disturbatore televisivo che abbiamo conosciuto. Era parte integrante di quel gruppo. Era il suo mondo, quello, diciamo così, della sinistra giovanile, a margine dell'inquadratura e di quelli che saranno poi i dirigenti del paese. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. In quegli anni Mario Appignani, detto cavallo pazzo, non è ancora noto per le sue incursioni e le sue follie. Non lo è ancora. Però è un eccentrico, spesso e volentieri è eccessivo, è inserito in un contesto in cui quella generica follia è condivisa. A 20 anni conquista un po' di celebrità in un'epoca in cui questa parola non aveva il significato che le attribuiamo ora. Scrive un libro di memorie, nonostante la giovane età, dal titolo Un ragazzo all'inferno. Emerge una storia terribile. Dietro a quell'indiano metropolitano, dietro alle sue stravaganze, eccentricità e alla sua piccola follia, c'è un'infanzia di violenze, di abusi subiti in diversi centri di aiuto all'infanzia, in teoria. Uno di questi è un istituto di ispirazione cattolica, il Santa Rita di Grottaferrata. È un brefotrofio della campagna romana, diretto da una donna che la cronaca italiana ricorderà a lungo. Una ex religiosa, se possiamo dire così, che si fa chiamare suora, suor Diletta Pagliuca. Quello è un istituto degli orrori e la donna che si proclama poco meno che santa mette in atto torture, maltrattamenti e punizioni terribili per i bambini che le sono stati affidati dallo Stato. Orfani, bambini allontanati da famiglie indigenti, ne moriranno 13 per il trattamento a loro riservato. La suora sarà condannata a 4 anni di carcere e, aiutata da protezioni importanti nelle alte sfere ecclesiastiche, evita una pena più pesante. Mario Appignani, che già da piccolissimo ha fatto il giro degli orfanotrofi e degli istituti vari, arriva al Santa Rita a 12 anni, entra nel tunnel degli orrori e lo racconta a 20 anni nel suo libro. Il falco del Gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Mario Appignani, meglio conosciuto come Cavallo Pazzo, l'uomo delle incursioni televisive a Sanremo, l'uomo delle incursioni alla Mostra del Cinema di Venezia l'anno prima, autore di mille altre azioni di disturbo, invasioni di campo, schiaffi a personaggi famosi, a volte meritati, inventore di tante bugie a loro modo artistiche e creative. Appignani è un po' il padre dei disturbatori televisivi, ma la sua storia, e lo stiamo scoprendo, è molto diversa e molto più profonda di quello che potevamo aspettarci. A 20 anni Mario Appignani racconta in un libro autobiografico la sua tremenda infanzia. E l'introduzione di quel libro, dal titolo Un ragazzo all'inferno, la scrive addirittura Marco Pannella, leader dei radicali, da sempre vicino alle istanze di chi in qualche modo viene rinchiuso da qualche parte e subisce qualcosa che non merita. Intorno al partito radicale Mario ha sempre gironzolato con quel suo fare un po' pressante, un po' assillante. I radicali prima abbracciano la sua vicenda, poi forse sono imbarazzati e iniziano inevitabilmente a evitarlo. Nonostante questo, Pannella cede alle pressioni di Cavallo Pazzo e forse per liberarsene scrive una lunghissima introduzione al libro. È un vero e proprio atto d'accusa contro le istituzioni dello Stato e della Chiesa, responsabili, secondo Pannella, delle violenze praticate nei centri di assistenza, negli istituti di correzione, nelle carceri. Pannella descrive un vero e proprio racket legato agli istituti per i minori, soldi pubblici in cambio di assistenza. Ecco cosa scrive, tra l'altro, Marco Pannella. Qui, sempre in questo libro, altri ospitano i nostri ragazzi in fuga e abitano in attici sontuosi, hanno posizioni di responsabilità, sono in alto nella piramide sociale, amano indossare indumenti intimi femminili e pagano per ottenere sul piano mercenario e capitalistico quello che gli assistenti, gli insegnanti, i direttori, le autorità, insomma, sono soliti ottenere con la violenza più diretta e sistematica degli enti di beneficenza, degli istituti di assistenza, dell'educazione, ben inteso, morale, religiosa, patriottica e laboriosa, fornita a spese dello Stato e dei cittadini. Esagero? Mario Appignani è figlio, per cercare di dirla in maniera elegante, di un rapporto mercenario. La madre è una prostituta e il padre un cliente distratto. Ecco cosa scrive allora Pannella. Infine compare anche l'industriale. È il padre o il padrigno di tutta questa storia. Frequentatore di bordelli, acquista da una madre tenutaria la virtù della figlia. Così comincia la storia di Mario Appignani, perché il signore non usava evidentemente i volgari antifecondativi dell'epoca e perché Mario aveva diritto imprescrittibile, evidentemente, a questa sua vita. Poi l'industriale si è occupato di profitto e la Repubblica di suo figlio. Poiché abbiamo parlato di padre, parliamo anche di mamma, che questa società onora e protegge, come si sa, e le dedica un giorno di maggio. Mario Appignani ne apprende l'esistenza, il nome, l'indirizzo a 18 anni. Corre a conoscerla, abbracciarla, non la trova. È in un ospedale dove Mario è già passato, quando ha tentato di suicidarsi a 12 anni. La raggiunge. È una donna consunta, massacrata anche lei dall'esistenza, ma non lì per curarsi. È al capezzale di una ragazza di 14 anni, la sorella di cui Mario ignora l'esistenza. L'hanno ricoverata lì perché ha tentato il suicidio. C'è un altro libro che più di recente ha raccontato questa parte della storia, quella che gira intorno all'infanzia tormentata di Appignani. Il significativo titolo del libro è «Eravamo solo bambini». L'ha scritto una persona che io conosco molto bene, Massimo Pollidoro, professore universitario di psicologia, noto per essere il cofondatore del CICAP. Il CICAP è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, in pratica quelli che più volte hanno smentito qualcuno che raccontava di essere stato a contatto con il paranormale, e quindi mi è capitato di vederlo all'opera. Però nella storia di Appignani il paranormale non c'entra, c'è forse l'ordinarietà del male, che nella vicenda che raccontiamo abitava il male all'istituto Santa Rita di Grottaferrata, il regno della ex suora Diletta Pagliuca, che un giornale dell'epoca definì la strega che voleva l'aureola. Mario ci arriva, che ne ha già viste di tutti i colori. Vediamo com'è la sua vita nel brefotrofio Santa Rita. È una vita drammatica, nel senso che lui è un orfano già cresciuto in istituti, uno non dico peggio dell'altro, ma insomma peggio dell'istituto Santa Rita era difficile trovarne. Qui veramente si trova a vivere in un inferno, perché questa donna, Maria Diletta Pagliuca, è assolutamente assetata di soldi che lei ricava sfruttando un po' la disperazione delle tante persone che non si possono prendere cura di bambini in difficoltà, di bambini che magari appunto sono orfani, quindi si fa pagare dalle regioni, dalle amministrazioni comunali le rette di questi bambini, che tratta peggio che fossero in un lager, li lega i letti, non gli dà da mangiare, gli dà gli scarti, li fa lavorare come schiavi, insomma le cose peggiori che si possono immaginare. Beh, quindi cose sociali che non vengono fatte pur usando soldi pubblici, ma non stiamo certo parlando dei tempi nostri, no? Vabbè, sempre che ne sia rimasta qualche traccia, chiediamo se si sa che bambino fosse in quegli anni a Pignani. In effetti non c'è moltissimo su come poteva essere da bambino, se non quello che poi ci ha lasciato lui nelle poche memorie che ha raccontato nei suoi pochi scritti. Era un ragazzino per quanto possibile curioso e che cercava l'amicizia dei suoi coetanei, quindi un qualunque segno di affetto, di amicizia, ovviamente in quelle condizioni era un grandissimo dono. E io credo che poi alla fine, se poi lui è diventato il cavallo pazzo che cercava una telecamera ovunque pur di farsi vedere, di farsi notare, non fosse semplice esibizionismo, ma fosse proprio il suo modo per dire che c'era anche lui, insomma, che non era la nullità che tutti gli avevano voluto far credere per tutta la sua vita, ma era una persona anche lui, e lo voleva in qualche modo dimostrare. Mario Appignani esce finalmente dall'istituto Lager di Diletta Pagliuca, entra in un altro collegio, questa volta meno terribile, ma sempre di collegio si tratta. Con la maggiore età è finalmente libero dal mondo dell'assistenza alla infanzia abbandonata. Dunque cerca di conoscere il padre, ma il padre, come abbiamo detto, era solo il cliente di una prostituta e quindi non è rintracciabile. Allora prova almeno a cercarla, questa prostituta che era sua madre, e la trova. Sì, è proprio così. Lui alla fine, come è naturale per chiunque sia stato in qualche modo abbandonato, cerca ancora la mamma, cerca i genitori, il padre appunto non c'era più, trova la mamma in un ospedale, però non c'è nessun riavvicinamento, nel senso che la madre, così come l'aveva abbandonato, non aveva conservato nessun ricordo, nessun affetto per lui, e purtroppo non c'è nessun legame che nasce, e i due si lasciano di nuovo. Cercherà in qualche modo di trovare una strada nell'impegno politico, si avvicinerà a Pannella, insomma cercherà di fare qualcosa di significativo, ma evidentemente i segni profondi di quell'infanzia, di quella fanciullezza, gli impediscono di avere una vita normale. Falco e il Gabbiano. Per chi disgraziatamente per me non lo sapesse ancora, io sono Enrico Ruggeri e vi sto raccontando la storia di Mario Appignani, famoso con il nome di Cavallo Pazzo, antesignano di una categoria che potremmo definire quella dei disturbatori televisivi. Tra poco sentirete altre azioni spettacolari di Cavallo Pazzo, da Sanremo al Festival di Venezia, alle sberle in faccia ad Alberto Moravia, e anche a quelle che lui ha preso spesso, da buttafuori, servizio d'ordine e quant'altro. Abbiamo anche scoperto però che dietro a questa figura quasi comica ci sia una vicenda difficile di abusi, che lui racconta in un libro che si chiama Un ragazzo all'inferno, scritto quando aveva 20 anni. Un libro che lo mette per un po' sotto ai riflettori. Il tema è scottante e se ne parla. Poi la luce diminuisce e si spegne e lui cerca disperatamente di riaccenderla. comincia un ventennio da guastatore, un futurista in ritardo di 50-60 anni. Iniziano le sue azioni clamorose. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! Cavallo Pazzo ne fa di tutti i colori prima di sbarcare sugli schermi televisivi. Malgrado tutti gli ostacoli tra lui e le telecamere, non ci sono immagini né sonoro, ma ce lo dobbiamo immaginare. Lo dobbiamo immaginare nudo sul palco di un comizio dei radicali in Piazza Navona, oppure mentre finge di buttarsi da un ponte sul Tevere. Protesta contro le tante denunce che ha già accumulato per le sue intemperanze. Dobbiamo immaginarlo mentre pedina i personaggi in vista della cultura dello spettacolo nei primi anni Ottanta. Arriva a schiaffeggiare Alberto Moravia nel bel mezzo del Campo dei Fiori a Roma. Importuna anche Amanda Lear. Si racconta che lei reagisca con grinta virile e che lo riempia di botte. Le botte sono proprio la sua prima e più diretta conseguenza delle sue irruzioni. Stanno per arrivare gli assalti più famosi, ma ce ne sono altri prima di cui non è rimasta traccia mediatica. Al Castello Sforzesco, per esempio, ruba il microfono a una giovane Enza Sampo durante una diretta in occasione delle sfilate di moda milanese. Urla al microfono: sono Cavallo Pazzo, devo dire una cosa, fatemela di... Un altro aneddoto: al Festival di Spoleto entra di nascosto nella stanza del compositore Giancarlo Menotti, indossa il suo pigiama e si fa trovare nel suo letto. L'anno dopo, sempre a Spoleto, irrompe sul palcoscenico e rovina la prima di Il Lebbroso. E siamo al Festival di Venezia del 91, serata finale, presenta, come quasi sempre, Pippo Baudo. Buonasera signore e signori, benvenuti alla serata conclusiva. La prego. Scusate, c'è un piccolo incidente, c'è un signore che sta... Ti voglio parlare, Pippo, ti voglio parlare, non mi mandare via dalla polizia, Pippo, ti prego. Ti prego, Pippo, ti prego, Pippo, ti prego, Pippo, Pippo, ti prego, ti prego, ti prego, Pippo, non mi abbandonare qua! Viene un po' la pelle d'oca a sentire quest'uomo che urla: Pippo, non mi abbandonare. E allora lo dico anch'io: Pippo, non mi abbandonare, e raccontami qualcosa di quest'uomo, tu che ne sei stato la vittima e in qualche modo sei stato protagonista di questi fatti. Intanto tu quante volte, cioè, è diventato un appuntamento fisso per te? Devo dire che non lo sentivo come un tormento, perché molti avevano paura di Cavallo Pazzo, invece per me era un amico, insomma, perché mi mostrava simpatia, affetto, e non mancava mai ai miei appuntamenti, però mettendomi ovviamente a disagio. Senti, ma tu cosa sapevi? Cioè, quando lui arrivava lì, tu sapevi già la sua storia? Ti dico due cose che sono comicissime. Al Festival del Ciclo, ho presentato soltanto una volta il Festival del Ciclo di Venezia. Sì. L'ho presentato a Piazza San Marco, l'unica volta veramente in cui si è fatta una bella premiazione, con un grande palcoscenico, tutta Piazza San Marco piena di gente, e a un certo momento io ho intravisto Cavallo Pazzo. Io ho detto al questore di Venezia, ho detto: guarda che c'è il Cavallo Pazzo lì, l'abbiamo già notato, è sotto controllo. Io appena sono uscito in palcoscenico ho detto: signore e signori, buonasera, già Cavallo Pazzo era in palcoscenico con me. Non l'hanno potuto fermare, non ce l'hanno fatta a fermarlo, come faceva non si sa. Ma infatti questo volevo chiederti anche, perché lui era un artista anche nel riuscire a illudere i servizi d'ordine. Io sono arrivato a Sanremo subito dopo le feste di Venezia, e a Sanremo mi ha lasciato un biglietto in albergo a Savoia in cui ci ho chiesto: ciao, sono Cavallo Pazzo, stasera ci vediamo in palcoscenico. Io ho preso il biglietto, l'ho consegnato al questore dell'Imperia e mi ha detto: lo stiamo controllando già da una settimana. Io alla terza battuta cavallo pazzo era in palcoscenico. E tutti quanti erano convinti che fossimo d'accordo a questo punto. Eh sì, si disse che era un espediente, appunto, degli ascolti. Proprio quello che si buttava dal palcoscenico lì, dalla galleria, come se tutto fosse combinato. Invece non c'era niente di combinato. Io, a distanza di tanti anni, potrei dire sì, è una cosa che abbiamo architettato, invece era tutto autentico. Lui aveva questa capacità diabolica di scappare, perché era elasticissimo dal punto di vista fisico. Sì, sì, sì, era un ogilineo. Bene, senti, io ti ringrazio tanto e ci vediamo presto. A presto. Un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Day after day they send my friends away to mansions cold and grey, to the far side of town where the thin men stalk the streets while the signs stay underground. Day after day they tell me I can go, they tell me I can blow. La capacità di Mario Appignani di eludere la sorveglianza è incredibile. Diventa leggendaria quando riesce a fregare anche le guardie svizzere in Vaticano e arriva a un metro dal Papa in piazza San Pietro. Però non fa niente di pericoloso, urla frasi incomprensibili, gesticola come un pazzo. Per conquistare i suoi minuti di notorietà, o forse, come abbiamo sentito, solo per affermare ad alta voce il suo diritto a esistere, ad essere visto e riconosciuto da qualcuno, Mario ne inventa tante. Dice di essere il figlio segreto di Renato Guttuso, inventa di sapere tutto sull'uccisione di Pier Paolo Pasolini. È una serie quasi ininterrotta di assalti, che per Mario non sono mai indolori, nel vero senso del termine. Prende botte da tutti e le sue incursioni gli causano arresti e molte volte il carcere. E poi le invasioni di campo, ospite quasi fisso della Roma quando gioca in casa ma anche in trasferta, accompagnato dalle ovazioni e dagli applausi del pubblico dello stadio. Invasioni di campo che gli costano una fatica enorme, perché nei primi anni 90 è già malato di AIDS, il male che lo porterà via nel 1996, a solo 41 anni. C'è un altro libro su Cavallo Pazzo, su Mario Appignani, l'ha scritto un altro indiano metropolitano, un suo amico che si chiama Marco Erler, detto Nuvola Rossa. Si intitola Assalto alla diligenza, quando Appignani rinacque Cavallo Pazzo. Nell'introduzione l'editore Carlo Caracciolo scrive così. Cavallo Pazzo attraversava la vita delle persone che incontrava come un essere misterioso, un alieno. Cosicché, quando era lontano, chiunque lo avesse conosciuto ne aveva un ricordo diverso da quello di tutti gli altri. Per alcuni era un sognatore, per altri un ladro, per alcuni un generoso, per altri un mitomane, per alcuni un artista, per altri un malato. C'era chi lo evitava a ogni costo, chi stava ad ascoltarlo affascinato, chi chiamava la polizia. Sentimenti contrastanti, come avete sentito. Cavallo Pazzo muore e i funerali li paga il comune di Roma. Il sindaco Rutelli, che Mario l'ha conosciuto durante la militanza nel Partito Radicale, dice: in ricordo di un ragazzo che ha il diritto di avere un segno di pietà umana, un gesto di amicizia ora che si trova solo, dopo una vita turbolenta in una certa Roma emarginata, un po' tragica e un po' comica, tipica degli anni 70. Per una volta un politico che fa e dice qualcosa di bello. Quella di Cavallo Pazzo è una delle tante storie che vogliamo raccontare, magari poco note, ma che ci ricordano come dietro a ognuno c'è appunto una storia. Una storia che vale la pena di conoscere e di raccontare. E noi aspettiamo i vostri commenti e i vostri suggerimenti. La mail è ilfalcoilgabbiano@radio24.it. Oppure su Facebook, sulla pagina della trasmissione. Insomma, cercatemi che mi trovate. Ci sentiamo lunedì. Forse su mio figlio di Dio, abbi pietà di tuo figlio. O Gesù mio, lascia un sorriso per me. O Gesù mio, figlio di Dio. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Giovanni Savarese.